Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quando parliamo impieghiamo una grande quantità di energia, principalmente attraverso l'emissione del respiro. Forse non ce ne siamo mai accorti, non ci abbiamo mai pensato, ma parlando respiriamo a scatti, in modo irregolare, concitato, e vengono coinvolti i polmoni, il cuore, la pressione sanguigna, il diaframma, che è quel muscolo importantissimo, il muscolo principale della respirazione, per non parlare poi di tutto l'impegno, quando riusciamo a mettercelo, mentale, implicito nella parola. L'antidoto a tutta questa attività che ci ruba energia e ci può stancare, semplice, il silenzio. Il silenzio come terapia dolce, scienza dell'autoguarigione, arte della longevità, e poi nel silenzio si ha l'opportunità di comprendere meglio se stessi e gli altri. Ma attenzione, un silenzio non è solamente assenza di parola, perché ci sono modalità di silenzio, approcci al silenzio e anche tecniche di silenzio. Allora, se l'idea, care amiche e cari amici, vi piace, restate con me. Fatemelo sapere, però potete farlo in silenzio scrivendomi al 349-238-6666 o mandandomi una mail a essere benessere@radio24.it. potete, come sempre, seguirci su Facebook o su Twitter, oppure potete intervenire, e quindi rompendo il silenzio, all'800 24 0024. Potreste ad esempio raccontarmi se il silenzio lo cercate o nel silenzio ci inciampate, e che cosa succede. State bene perché vi sentite rilassati, concentrati, ricaricati, oppure il silenzio vi imbarazza, vi fa un po' paura, vi infastidisce, vi innervosisce? C'era qualcos'altro lassù che col passare del tempo divenne per me sempre più importante. Il silenzio. È un'esperienza a cui non siamo più abituati. Lassù faceva da sottofondo a tutte le esperienze. Di notte il silenzio era unico. Sordo rimbombo che usciva dalle viscere della terra. Attraversava i muri. Entrava dappertutto. Il silenzio lassù era un suono. Tiziano Terzani. E qui in studio con me oggi Nicoletta Pollamatteo, giornalista, fondatrice, conduce Demetrio dell'Accademia del Silenzio. È una scuola che promuove una cultura, ma anche un'ecologia del silenzio. Nicoletta, ciao. Ciao, e grazie a te di avermi invitato qui a parlare di silenzio. A parlare di silenzio. Noi parliamo di silenzio per dire che non c'è rumore, o per estensione che non c'è comunicazione. In realtà però il silenzio, lo sappiamo, è un'illusione, perché basta che battere d'ali a rompere il silenzio, oppure nella pancia della mamma già il bambino ascolta il silenzio, a volte lo ascoltiamo noi, no? Il battito dentro di noi. Quindi lo so che sembra una domanda banale, ma una domanda a cui è molto difficile rispondere, forse perché ciascuno di noi ha una risposta personale. Che cos'è il silenzio per Nicoletta Pollamatteo, fondatrice dell'Accademia del Silenzio? Io infatti, rispondendo alla tua domanda prima, ho detto: ti ringrazio di avermi invitato a parlare di silenzi al plurale, perché credo davvero che ogni persona potrebbe dare a questa domanda una risposta diversa. Io proporrei in questa occasione di pensare il silenzio come pausa, quindi non come qualcosa di assoluto che rischia di fare magari paura, o rischiamo di sentirlo come estraneo, o ci evoca magari ricordi preoccupanti, terribili, qualcosa appunto che ci agita. Pensare invece al silenzio come pausa, come intermittenza, come interstizio, come un piccolo cuneo da mettere all'interno delle nostre abitudini quotidiane, del bla bla bla continuo, come abbiamo sentito nella registrazione all'inizio, ma anche della nostra corsa continua. Quindi una pausa dentro cui ciascuno fa quello che vuole. Se riesce, fa anche semplicemente il vuoto per creare appunto una cassa di interiore, di ascolto di sé e degli altri. E io colgo il tuo spunto, Nicoletta, per invitare i nostri ascoltatori a chiamarci o a scriverci per dare la loro definizione del silenzio, perché abbiamo visto che ci sono tanti silenzi e ci hanno ascoltati in silenzio, ma attenzione, con fronte rilassata e ombelico mobile, due amici che avranno, immagino, tanta voglia di parlare, detto che sono appena tornati da un'esperienza di silenzio in India, durata ben 9 giorni. Susi Stefanini e Daniele Belloni di Yoga and Meditation Training, che sono qui in studio con me, benvenuti. Buongiorno, buongiorno, Nicoletta, e buongiorno a tutti. Susi, raccontaci cosa si prova a non parlare per 9 giorni. Beh, è stata veramente un'esperienza speciale, molto particolare. È stato per me come fare un po' un viaggio nel viaggio, anche la scoperta di me stessa, di aspetti anche divertenti, sorprendenti di me stessa. Mi viene in mente, per esempio, che una sera avevo così tanta energia, forse l'ho risparmiata dalle parole che non ho detto, e prima di riuscire a dormire ho dovuto fare una passeggiata lunghissima e mi sono resa conto di quanto normalmente nella vita con le parole sprechiamo un sacco di energia. Quindi, Daniele, se la parola ci fa in qualche modo sprecare energia, il silenzio dovrebbe ricaricarla. Esatto, è proprio così. La parola è come tutti gli impieghi della mente che transitano attraverso i sensi, sono appunto, si tratta, la parola e tutti gli altri sensi, si tratta di proprio di applicazioni energetiche del nostro sistema vivente, del nostro sistema umano. Quindi è chiaro che, essendo costantemente immersi nel pensiero della parola o vivendo con attorno un rumore di fondo che implica un'attivazione forte del piano sensoriale, anche una quantità notevole di energia se ne va per tenere tutto quanto assieme, come se avessimo una centralina, diciamo, di allarme, sì. Passami l'immagine, costantemente capisco. Accesa, perché non è solo quello che ascolto, ma quello che vedo, l'impulso e l'input di tipo gustativo, tattile, tutti i sensi attivi implicano un utilizzo di energia. Quindi più i sensi vengono utilizzati, e spesso anche senza consapevolezza, e più l'energia che è impiegata è elevata, e ovviamente più ci sentiamo stanchi al termine di una giornata impiegata a lavorare costantemente con i sensi. Infatti, quando siamo stanchi e qualcuno parla, le mamme ad esempio, quando i bambini fanno un po' i capricci, si agitano, bambini fate silenzio, la pausa a cui accennavi tu. Anche se in genere noi ai bambini chiediamo fate silenzio in maniera coercitiva, il che non è giusto, perché i bambini in realtà sanno stare in silenzio se glielo si propone come gioco. Noi bambini hanno proprio bisogno di lasciare la mente libera ogni tanto, non fare sempre qualcosa, che è un'impostazione tipicamente adulta. Gli adulti sono sempre a fare, noi siamo sempre di corsa. Dovremmo imparare anche ai nostri bambini lasciare il tempo di annoiarsi, proprio di avere degli spazi vuoti, invece di portarli al corso di musica, poi al corso di tennis, poi guarda, vedo che Daniele sorride. Tra l'altro, noi in questa puntata tutta dedicata un po' alla ricerca del silenzio, al silenzio che ci piace, ma anche scopriremo che il silenzio può creare grande imbarazzo. Il silenzio non è sempre silenzioso, a volte diventa assordante, fastidioso, quasi, perché le nostre orecchie sembrano incapaci di ascoltare il silenzio, si mettono a parlare, a suonare. Ne parleremo tra poco, ma Susi, vorrei tornare alla vostra esperienza per dire che il silenzio in fondo accende la creatività, perché la voglia di fare. La vostra esperienza di silenzio in India, ad esempio, è legata all'uscita imminente di un libro DVD per Mimesis. Sì, sì, che io aspetto con grande, come si dice, desiderio. Sì, il titolo sarà proprio una bellezza intangibile. Perché sì, è il silenzio, la via del silenzio nella tradizione yoga dell'Himalaya, il regista è Virgilio Bardella, ed è quest'idea, ci è venuta perché quando abbiamo saputo che il nostro maestro Swami Veda Bharati avrebbe intrapreso un percorso di silenzio che durerà almeno 5 anni, ci siamo fatti alcune domande, abbiamo per noi stessi delle riflessioni da approfondire questa idea del silenzio nella nostra vita, e quindi con Daniele abbiamo così deciso di dar vita a questo progetto che prevede proprio una serie di video di interviste a insegnanti della tradizione yoga dell'Himalaya. E quando uscirà? Uscirà a settembre. Quindi dovrete ancora tornare molto qui, ne parliamo e lo vedremo. Il silenzio infatti può essere molto rumoroso, lo sa bene il professor Giorgio Guidetti, responsabile del servizio di audio, vestibologia e rieducazione vestibolare, USL di Modena, ospedale Ramazzini di Carpi. Ho finito, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Professore, io la prossima volta non la presento più, perché qua bisogna essere allenati, eh? Bisogna... Per stare in silenzio, professor Guidetti, lo anticipavamo, ma molti ascoltatori mi stanno scrivendo, noi dovremmo riuscire a mettere a tacere le nostre orecchie, che invece si mettono a suonare, fischi, ronzii, il silenzio va in fumo. Eh sì, io direi che abbiamo tre tipi di silenzio nell'orecchio. Abbiamo un silenzio turbato, cioè a un certo punto noi crediamo, pensiamo di essere in silenzio e sentiamo un rumore di fondo, è quello che viene chiamato generalmente acufene, no? C'è un segnale d'allarme che da qualche parte nei circuiti dell'udito qualcosa non va. Poi abbiamo un silenzio che stupisce, sì. Cioè noi sentiamo qualcosa che non ci aspettiamo di sentire, ma che grosso modo crediamo di riconoscere, come il battito del cuore. Qualche volta succede, la gente ne rimane stupita, dice ma io sento battere il mio cuore, che è stravagante, no? Che uno si stupisca, però succede anche questo, per alcune persone questo diventa molto fastidioso. Poi abbiamo un silenzio che turba, sì. Cioè il silenzio che turba perché non sento più, e questo è un silenzio preoccupante, certa gente dice a un certo punto io sentivo, non sento più, è un caso raro, ma sono le cosiddette sordità improvvise, gente che poveretta perde completamente l'udito all'improvviso, non sono esperienze drammatiche. E poi c'è qualche volta invece... Quindi un quarto tipo di silenzio. Eh sì, non sento più il mio solito rumore di fondo. Allora chi si abitua ad avere un rumore di fondo, l'acufene cronico, con cui diventa... diciamo familiare, quando questo non esiste più, e qualche volta anche questo succede, ecco che e paradossalmente c'è la paura, ma è cambiata la malattia. Questi sono silenzio turbato dall'orecchio, sono situazioni diverse, ma tutte collegate al concetto di silenzio modificato, diciamo. 800 24 00 24, il professor Guidetti, come aveva anticipato Nicoletta Pollamatiò, ci ha descritto vari tipi di silenzio. Noi possiamo cercare tanti tipi di silenzio, lo faremo oggi, ci sono delle tecniche di silenzio e il nostro orecchio può percepire diversi tipi di silenzio, in questo caso un silenzio disturbato, un silenzio che ci fa cogliere dei rumori fastidiosi, dei fischi, dei ronzii. Possiamo avvertire, come diceva il professor Guidetti, anche il battito del nostro cuore, che si mette proprio a suonare lì, a dare il tempo nel nostro orecchio. Anche, professor Guidetti, questo silenzio un po' ovattato, che sembra quello che proviamo quando saliamo in aereo, quando ci si tappano le orecchie. Eh certo, questo per esempio è legato spesso al disturbo di quel canalino che c'è tra naso e orecchio, che dovrebbe, diciamo, mantenere costante la pressione all'interno dell'orecchio. Quando questo si chiude abbiamo quelle sensazioni di vuoto che creano uno strano silenzio all'interno dell'orecchio. Ma c'è anche un'altra cosa da dire, credo che sia a proposito del vuoto e delle sensazioni strane. La nostra mente generalmente ha paura del vuoto, non è abituata al silenzio e tende a riempirlo, lo riempie anche di ricordi più o meno desiderati, più o meno graditi, come delle volte ci viene in mente un ritornello, una musica, quello che chiamano anche il bacco nell'orecchio, no? Il bacco sonoro, altre volte invece purtroppo sono assolutamente non desiderati, come appunto gli acufeni cronici, che qualcuno dice che siano generati proprio dalla paura che la mente ha del vuoto, cioè dell'assenza di informazione sonora. Abbiamo in linea con noi Paolo dalla provincia di Milano e subito dopo Maria Assunta da Roma. E intanto, a proposito di silenzio disturbato, Daniele Belloni, so che alla ricerca del silenzio anche tu hai dovuto mettere a tacere quel rumore che avvertivi nell'orecchio, quindi tu ci racconterai e puoi già raccontarci la tua esperienza. Volentieri. Ho ascoltato con molto interesse tutto quello che ha detto il professor Guidetti, mi sono piaciute molto queste definizioni di silenzio, questo silenzio che stupisce, mi ha colpito particolarmente il battito del cuore. Ecco, per dirti e per dire che per me questo problema è stata un'opportunità di pratica, nel senso che in fin dei conti noi viviamo turbati da rumori, e sì, sono interni e esterni, ma talvolta sono talmente mescolati che fa veramente poca differenza, sono dentro, sono fuori. Nello yoga sappiamo, quando abbiamo tacitato il rumore esterno, dobbiamo affrontare i rumori interni, che siano fisiologici o mentali, psicologici. Quindi per me è stato uno stimolo ad attraversare questo aspetto rumoroso della mente e scoprire, mi piace quello che ha detto il professor Guidetti, questo rumore che stupisce, il battito del cuore. Per uno yogin, per una yogini, potrebbe essere il battito dell'anima. Cioè capire che in fin dei conti tutto quello che ti capita dentro e fuori sì è importante ma non fondamentale, che c'è qualcosa che va oltre e su quel qualcosa ti puoi concentrare, puoi mettere interamente tutto il tuo essere e provare a sviluppare quella dimensione, come ha fatto ad esempio Terzani che avete messo in modo bellissimo e meraviglioso all'inizio, un silenzio che stupisce, quello dei panorami himalayani, quello della grande montagna, quello delle altezze, delle altitudini, delle vertigini che l'altitudine, vertigini per l'anima può generare, quindi tutto può essere un'occasione di riflessione. Un'occasione, questo è il messaggio che vogliamo anche passare ai nostri ascoltatori che sono invitati naturalmente a intervenire. Paolo dalla provincia di Milano, eccolo qua, buongiorno Paolo. Buongiorno Nicoletta, complimenti per la trasmissione. Grazie Paolo. Stavo ascoltando con molto interesse quello che stavano dicendo i suoi illustri ospiti e purtroppo io vivo, non so cos'è il silenzio, nel senso che da 50 anni, non 50 anni perché diciamo non ho ricordi di infanzia, ma o soffro di acufeni, tra l'altro anche molto strani, nel senso che sono diversi in entrambe le orecchie. Nell'orecchio destro ho un tipo di acufene, nel sinistro ne ho un altro, quindi addirittura il mio cervello ha imparato, penso, ad azzerare questo rumore, se no potrei anche impazzire. Quindi una piccola orchestra, un duo. Un duo, ma comunque io e lei ci siamo capiti, ma sicuramente avrà capito anche il professor Guidetti. Sì, è una cosa molto comune quella che i pazienti raccontino delle sensazioni diverse come tipo di suono, riferendosi appunto agli acufeni con cui vivono in simbiosi. E questo è uno dei grandi misteri della scienza, non sappiamo esattamente perché o durante la giornata cambi il tipo di suono oppure contemporaneamente ci siano suoni diversi nelle due orecchie. Questo è un mistero, però è un mistero affascinante su cui stiamo lavorando, prima o poi ci arriviamo a capirlo, spero. E per Paolo può essere utile l'indicazione di Daniele, cioè utilizzare un po' questi suoni per... E anche Nicoletta, se vogliamo essere su un piano più pratico, sì, perché ho parlato forse in termini troppo filosofici, spesso queste tensioni, forse il professor Guidetti me lo può confermare, la mia esperienza almeno è questa, queste tensioni a livello delle spalle, del collo, del viso, l'articolazione temporomandibolare, sono in grado di, diciamo, sottolineare, peggiorare il problema, quindi dei movimenti anche fisici che siano di scioglimento, rotazione del capo, di movimento delle spalle possono essere molto utili, di automassaggio di alcuni punti del collo e del capo e anche il lavoro sul respiro, perché evidentemente lo stato psicologico è in grado di nuovo di sottolineare oppure di azzerare o comunque di mettere, diciamo, in sottofondo questo problema che stiamo affrontando, quindi un lavoro triplice. Io ho parlato inizialmente della mente, ma si può lavorare e utilmente sul respiro corpo. E sul corpo, partendo dal corpo. Maria Assunta, da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Questa mattina sono stata spinta a telefonarvi, ascolto spesso la vostra trasmissione così, perché quando sento parlare di silenzio mi viene in mente qualcosa di sacro, di religioso, qualcosa come se si spegnesse il mondo esterno E la persona si trova catapultata nel mondo interiore di sé, così. E quindi a volte questo grande silenzio magari ha bisogno anche di una guida, perché magari nel silenzio ci si può anche perdere. È vero, Maria Assunta. Intanto la ringrazio per questa sua personale definizione di silenzio. Mi piacerebbe raccoglierle anche nella nostra pagina Facebook, o se volete mandarmi una mail, faremo una sorta di descrizione di, e poi la faremo leggere naturalmente anche a Nicoletta Pollamatteo, che sul silenzio ci lavora con la sua accademia. Nicoletta. Ma io volevo rilevare una cosa molto interessante che sta succedendo qui in trasmissione, mi sembra anche dagli ascoltatori che stanno chiamando. Non so se vi accorgete, ma stiamo parlando tutti un po' più lentamente e questo mi fa molto piacere, perché appunto l'idea è quella di provare anche il silenzio come pausa, dicevamo all'inizio, no? È verissimo quello che diceva l'ascoltatrice, il silenzio è una dimensione enorme e appunto c'è il silenzio mistico, c'è il silenzio religioso, c'è un silenzio che affascina ma nello stesso tempo spaventa per la sua dimensione gigantesca, no? Per l'abisso a cui fa affacciare. Un filosofo come Roberto Mancini parla di accoglimento al mistero quando ci si avvicina al silenzio, però ecco, a me piacerebbe riportarlo a una dimensione anche più quotidiana, no? E Poiché il silenzio è anche un linguaggio, il fatto che noi stiamo tutti parlando un po' più lentamente significa che in qualche modo stiamo inserendo un po' di silenzio, un po' di rallentamento anche nella nostra conversazione, che non è male. Ci stiamo sintonizzando, Susi? Sì, sì, per pensare. Tu dici proprio. Perché tu sei la nostra maestra del silenzio, dopo 9 giorni assoluti di silenzio, e quindi è una pratica, non ci si arriva per caso, perché stare in silenzio è consapevolezza. Sì, e diciamo. Cosa dici? Ci stiamo avvicinando? Ci stiamo avvicinando, e l'esperienza di 9 giorni di silenzio, iniziate anche per pura curiosità, è interessante perché si sviluppa una maggiore consapevolezza, per esempio dei sogni che diventano più lucidi, e anche questa capacità di utilizzare, come diceva prima Nicoletta, il linguaggio in modo diverso, lo portiamo con noi anche quando torniamo a parlare, perché comunichiamo le stesse cose ma con più attenzione anche agli altri. Quindi energia a 360 gradi nelle sue molteplici definizioni. Essere e benessere. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E torniamo a parlare di silenzio. Sembra strano, ma per riflettere sul silenzio e per comunicarcelo, per invitarci a farlo, dobbiamo parlare, e noi devo dire che in studio abbiamo chiacchierato parecchio, non è che abbiamo fatto silenzio. Professor Guidetti, lei è ancora in linea con noi? Sono in linea. Sono abbiamo in linea. Paolo da Verona. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletta, complimenti per la trasmissione e per la compagnia che mi fate. Grazie. Durante il giorno. Sono tutto il giorno in macchina, quindi vi ascolto sempre. E niente, io volevo fare una domanda al professor Guidetti. Io soffro, ho 46 anni, soffro di un acufene all'orecchio sinistro con un sibilo costante, che però negli ultimi mesi ha aumentato proprio di volume, come se qualcuno fosse andato ad alzare il volume. E questo comincia a darmi parecchio disturbo. Quando arriva l'ora di andare a letto la sera, comincio a essere un po' preoccupato, perché faccio un po' fatica a prendere sonno, perché questo fischio è molto fastidioso. E volevo chiedere se c'era qualcosa per poter mascherarlo, per ridurlo un po', o se ormai è diventata una cosa cronica e me la devo tenere, non si può fare niente, insomma, ecco, questa era un po' la domanda. Professor Guidetti. Bene, bene. Dunque, allora, due chiacchiere rapidissime sul concetto di acufene. L'acufene è solo un segnale d'allarme, vuol dire che da qualche parte c'è qualcosa che non va, quindi c'è una causa che lo genera. Dopodiché noi lo possiamo sentire di più se abbiamo per esempio un amplificatore meccanico attivo, come diceva prima mi pare Daniele, c'è cioè il problema per esempio dei muscoli contratti, tanto per dare un'idea, o della tuba di Eustachio chiusa, oppure abbiamo un amplificatore digitale, cioè a livello cerebrale, no? Come può essere lo stress, la tensione emotiva o qualche malattia specifica del cervello. Quindi come si fa a cercare di affrontare il problema? Bisogna rimuovere le cause se le si identificano, per esempio curare la pressione alta, tanto per dire, o rinforzare il metabolismo dell'orecchio con delle medicine o per esempio con i laser a bassa potenza. Poi se non si riesce a lavorare più di un tanto sulle cause, bisogna agire rilassando, quindi con le tecniche di rilassamento. Oppure, se non è questione dell'amplificatore meccanico, ma è un problema, tra virgolette, di cervello, bisogna combattere lo stress. E se anche questo non si riesce a ottenere, perché a forza di stare ad ascoltare il proprio rumore finisce che lo si mette in un certo senso in memoria, bisogna antagonizzare questo rumore in memoria. E come si fa? Si utilizzano o dei suoni piacevoli che costringono il cervello ad ascoltare il suono piacevole invece che ascoltare il rumore di fondo, oppure dei suoni che richiedono un'attenzione continua, si chiamano suoni frattali, che sono suoni praticamente che non ripetitivi, quindi costringono un'attenzione continua. Ma soprattutto io credo che la prima cosa da fare sia di informare il paziente, quindi compreso quello che ci ha fatto adesso la domanda, che quando aumenta il suono e comunque anche quando compare, raramente è l'espressione di una malattia grave, e quindi bisogna non spaventarsi prima di tutto. Poi naturalmente utilizzare quelle altre logiche che abbiamo detto, quindi nel caso suo cercare di capire se è un fatto di amplificazione meccanico o digitale che gli ha provocato questo aumento del suono ed affrontarlo. E come ha sottolineato il professor Guidetti, anticipato Daniele, dettato proprio dalla sua esperienza personale, ci sono le tecniche di rilassamento, Susi. Sì. Ce ne sono diverse, ma una che tu ti senti di suggerire in modo particolare. Sì, perché proprio ci aiuta in qualche modo, come diceva il professor Guidetti prima, a sostituire un suono sgradevole come un acufene con un suono gradevole, questa volta autoprodotto, un suono che riconosciamo nella natura come il ronzio del calabrone, Brahma, di questa tecnica di pranayama. Di respirazione, in cui emettendo con l'espiro un suono simile al ronzio dell'ape, lo ascoltiamo ed è un suono rilassante che porta nella struttura interna del corpo, in ogni spazio interno fino al capo, una vibrazione molto piacevole e rilassante. Noi abbiamo preparato un video che trovate già sulla nostra pagina, chiedo a Laura Vanossi, Facebook? Sì. Ho detto bene, sulla nostra pagina Facebook, perché con Susi Stefanini prima della puntata e insieme anche a Daniele Belloni abbiamo preparato dei video, insomma mi hanno guidato e anche in questa respirazione del calabrone diamo le indicazioni per le persone che avvertono rumore, quindi ronzii, fischi, ma in generale rumore in generale diffuso, anche il rumore dei pensieri. Assolutamente, è una straordinaria tecnica di transizione dalla parola, così come viene espressa verbalmente, alla pura vibrazione interna del suono, ed è una transizione verso un silenzio naturale che poi avverrà con la pratica meditativa. Abbiamo messo queste, ne troverete tre piccoli video che possono essere però visti insieme fino a formare una sequenza. Una piccola pratica. Una piccola pratica. Ed è quello che con Susi Stefanini e Daniele Belloni abbiamo pensato, è proprio invitarvi a scaricatevele dal... Vuoi parlare tu che sei più tecnologico, Daniele? Parla tu. Scaricatevele dal sito. Potete metterle su qualsiasi dispositivo mobile, ti piace così? Sì. E quindi portarle sempre con voi, sia telefonino, iPad, iPod o qualunque strumento per ascoltare audio abbiate con voi, beh, sono delle piccole pillole di silenzio e di benessere, sono piccoli cunei, come diceva prima Nicoletta, che possiamo mettere nella nostra giornata affinché si espanda uno spazio nel quale possiamo ritrovare noi stessi con serenità. Nico, ti piace? Mi piace moltissimo perché appunto io sono una fautrice delle pause, appunto. Come si capisce, e se posso permettermi, perché stiamo facendo un brainstorming, allora molto meno tecnologico, però io credo che portarsi sempre dietro qualcosa da scrivere o qualcosa da leggere sia un buon antidoto al rumore, perché quando qualcosa ci prende completamente e appunto ci concentra o nella bellezza della sua trama, se è un libro, un romanzo, oppure quando un pensiero appunto ci interessa così tanto e che non vorremmo perderlo e lo vogliamo appuntare, ecco, lì ci creiamo in qualche modo una bolla di silenzio almeno rispetto al rumore esterno. Io credo che avere sempre dietro un taccuino o un libro, il proprio libro, o anche un libretto di poesie, per esempio, qualcosa su cui meditare, possa essere un aiuto. E qui mi permetto di fare una pausa legata alla nostra Accademia del Silenzio. Noi proprio in questa direzione abbiamo fatto, fra l'altro, con la stessa casa editrice Mimesis, che pubblicherà appunto il vostro video, il vostro corso, questi piccolissimi libretti che si chiamano i taccuini del silenzio, i taccuini di Accademia del Silenzio, che sono libretti da tasca, 60 pagine, non di più, quindi piccoli, si infilano in tasca, e anche il tempo di lettura è breve, sono quei minuti che forse ci potremmo regalare ogni giorno di silenzio, appunto, di pausa, quindi, di interstizio. Quindi noi abbiamo pillolina da scaricare, mettere dove volete sui vostri dispositivi, no? Sono mobili. Taccuino oppure librino, tutto che finisce in ino. Essere e benessere. E siamo tornati insieme. Professor Guidetti, ma quanti rumori fa questo corpo? Batte, si sentono i rumori della pancia, si sente il cuore che batte dentro l'orecchio. Il corpo, insomma, non sta mai in silenzio. No, non sta mai in silenzio, ma sarebbero tutti dei messaggi tranquilli. Il problema è che siamo messi in una maniera ormai che qualsiasi cosa che ci diversifichi da quello che stiamo facendo ci spaventa. E questo è uno dei problemi più gravi, per cui, appena detto prima, la prima cosa da fare è di informare che raramente i rumori che sentiamo sono, meno che siano casi particolarissimi, sono veramente preoccupanti. Bisogna imparare ad ascoltarli con tranquillità. Bisogna imparare ad ascoltarli con tranquillità e imparare proprio ad ascoltare e a lavorare sul corpo. Certo, Susi. Certo, perché se il corpo è rumoroso, è un corpo dolente, è un corpo teso, è molto più difficile accogliere le pause di silenzio, che poi possono avvenire anche in modo naturale. Per esempio il saluto al sole è una tecnica straordinaria per dare al corpo il rilassamento, sciogliere le tensioni, quindi portare il corpo ad una predisposizione all'ascolto e al silenzio. Anche in questo caso abbiamo fatto il saluto al sole per voi, un piccolo video. Sì, io ho provato a farlo con Susi. Nicoletta, all'inizio bravissima. Era una scopa, cioè, però secondo me se lavorate anche voi con me, giorno dopo giorno, il momento ideale sarebbe alla mattina. Sarebbe alla mattina. Se uno non ha tempo, la fa la sera. Il sole è sempre presente. Ecco, e poi si fa due volte. Un ciclo. Vale due volte. Basta andare sulla nostra pagina Facebook e portatevi dietro il saluto al sole, ma noi non ci siamo fermati qua. Oggi abbiamo lavorato e devo dirvi che Susi e Daniele sono arrivati qua in radio alle 10, ci siamo chiusi in uno studio di Radio 24 e noi siamo tutte vetri, per cui anche coi colleghi che passavano, e io ho avuto il privilegio di avere come maestri Daniele e Susi, che mi hanno proprio fatto toccare con mano e toccare anche con il diaframma queste loro lezioni. E io non so come dirvi, non so che loro sono bravi o che io magari mi sono lasciata suggestionare. Ho iniziato la puntata bene, ricaricata, insomma, mi è piaciuto, e allora io vorrei che ne approfittaste anche voi con la meditazione del respiro. Sì, una meditazione che ha come finalità quella di riscoprire questo luogo interno profondo, nello yoga in termini filosofici diciamo essenzialmente luminoso, ma potremmo tradurre questa frase con silenzioso. È un luogo a cui si giunge attraversando la mente, si utilizza una visualizzazione che richiama proprio questa qualità luminosa e silenziosa della mente. È una meditazione breve che può essere svolta ovunque e ha come, se possiamo anticiparlo, come certo. Punto centrale, come immagine focale, questa di un lago immobile che riflette, trasparente, che riflette i raggi del sole, e se vuoi una metafora proprio, quindi un simbolo molto potente che la mente sa interpretare, perché possiamo lavorare a fondo con questi simboli significativi, la mente sa interpretare e sa essere condotta oltre in questo cammino, verso quel luogo che riconosce, che è sempre dentro di noi, questo silenzio è sempre dentro di noi, ma è un silenzio, ci tengo a ribadirlo Nicoletta, è un silenzio che è un'accezione luminosa e positiva, di pace, non è un silenzio imposto, non è un silenzio che nasconde una sofferenza, non è un silenzio che prelude a esperienze negative o le ricorda, è un silenzio luminoso, di pace. Nico? Sono senza quasi parole. Rilassata, sono senza parole, è vero, questo potrebbe essere. No, vorrei aggiungere una cosa sul corpo, perché mi sembra che stiamo appunto avvicinandoci molto anche al linguaggio del corpo. Abbiamo detto che il corpo non sa stare in silenzio, ed è vero, perché emette rumori, però il corpo parla anche, e credo che appunto in questo senso il silenzio sia anche un linguaggio. Se cominciamo a considerare il silenzio come un'occasione per guardarsi di più, non si ascolta più con le orecchie ma ci si guarda appunto con gli occhi, beh, il corpo ci comunica tante cose, tantissime, non soltanto nei gesti ma proprio nella postura, nella distanza o vicinanza rispetto a cui ci mettiamo con le persone, negli sguardi, nei sorrisi. Io credo che abituarsi a usare non solo le orecchie ma anche gli occhi ogni volta che entriamo in relazione con le persone è un buon esercizio di silenzio ed un buon esercizio di ascolto del proprio corpo e del corpo degli altri e di quello che ci comunica. Professor Guidetti, vorrei concludere con lei, perché il professor Guidetti in fondo viene a confronto quotidianamente con persone che sono disturbate dal silenzio e che avvertono il loro problema quando stanno in silenzio. Sono persone a cui il silenzio in qualche modo arreca malessere, fastidio. Professor Guidetti. Beh, purtroppo quando parliamo dei soggetti che hanno dei deficit uditivi più o meno gravi, che diventano gravi, più chiaro che questo silenzio impedisce il rapporto umano, impedisce di vivere in maniera soddisfacente i rapporti sociali, e è chiaro che questi sono problemi molto gravi. Quello che possiamo dire è che mentre una volta un ipoudente era una persona costretta ai margini della società, l'evoluzione dell'audiologia, dell'otochirurgia, insomma in generale della scienza che si occupa dell'orecchio e dell'udito, ha consentito talmente grandi passi in avanti che oggi possiamo quasi dire che sostanzialmente siamo in grado di ridare un livello di comunicazione uditiva a quasi chiunque, ecco. E quindi questo è un messaggio che solo 30 anni fa non si poteva stato possibile dare. Allora, io ringrazio il professor Guidetti per essere stato con noi. Grazie professore, ci sentiamo presto. Grazie a voi, a presto. Ringrazio i miei ospiti, Susi, Daniele, Nicoletta, che ci hanno accompagnato in questo percorso lungo il silenzio, facendolo un po' toccare con mano, dandoci dei consigli pratici. Vi ringrazio. Ricordiamo l'Accademia del Silenzio. Aspettiamo a settembre l'uscita del vostro libro DVD intervista. Volentieri. Docu libro DVD. Sì. Vi ricordo che potete scaricare le pratiche che abbiamo registrato anche sulla pagina di Essere Benessere, naturalmente sul sito di Radio 24. Gianmarco Ferronato in regia, la parte tecnica, silenzioso ed efficiente. Laura Vanossi in redazione. Per oggi è tutto, io vi aspetto lunedì. Buonissima giornata. Essere e benessere.